E allora, finalmente alle 18.30, come annunciato, siamo qui in studio diverse compagne per parlare un pochino e riflettere insieme sulla giornata di mobilitazione mondiale del 15 ottobre e di come è stata vissuta qui a Roma. Oltre ad essere tante noi in studio, ci appoggeremo anche a delle testimonianze degli iscritti che sono girate nelle reti di femministe e lesbiche in questi giorni, in particolare quindi ringraziamo Daria, Elena e Deborah che ci hanno ispirate, di cui leggeremo delle parti dei loro commenti a questa giornata e iniziamo proprio da Daria, la quale ci racconta dal suo arrivo in piazza molto presto e lo fa giustamente dicendo perché è importante la percezione anche di che cosa è stata quella manifestazione, libera poi da tutto il bombardamento di cui adesso siamo pienamente investite, diciamo. Quindi lei racconta questo: sono arrivata in piazza molto presto proprio perché volevo capire, percepire gli animi e decidere dove collocarmi nella manifestazione, un po' impaurita, un po' divertita per quello che sarebbe potuto succedere. Se tutte le persone con cui ho parlato erano consapevoli del tipo di manifestazione a cui stavano per partecipare. Ho incontrato alcune ex colleghe di lavoro, per esempio, cioè donne di quella vasta società civile stufa della situazione politica, e alla mia premura di avvertirle che la manifestazione sarebbe stata comunque calda, mi dicevano che lo sapevano già, anche con qualche sorrisino dissimulato. Semplicemente ognuna sceglieva dove collocarsi nel corteo in base alla distanza fisica e non politica che voleva avere dai punti caldi, diciamo così. Questo è il prima, lo racconto perché secondo me è importante la percezione delle cose libera dal successivo, appunto, bombardamento mediatico e da quello strano fenomeno di massa che è l'opinione pubblica. Se tutti dicono che quelli erano cattivi, forse lo devo dire pensare anche io. Questa si chiama effettivamente costruzione del consenso e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. E poi, appunto, lei continua il racconto: mentre avvenivano gli scontri mi sono trovata insieme a migliaia e migliaia di persone, di compagni e di compagni. Eravamo fuori dagli scontri per vari motivi pratici e politici, avevamo scelto di non parteciparvi, ma stavamo lì per ore e ore, siamo rimaste e rimasti lì e non ce ne siamo andate e andati, come a dire quello che stava succedendo in piazza era la nostra manifestazione. Non siamo scappati, ma con la nostra presenza abbiamo sostenuto chi si scontrava con le guardie, non li abbiamo lasciati soli, insomma, anzi ogni tanto si sentiva qualcuno anche che urlava: dai compa, andiamo, non lasciamoli soli. Quindi gruppi di 30-40 persone tornavano nella mischia e per ora è andato avanti così. Diciamo, ci premeva iniziare in questo modo perché poi in effetti abbiamo sentito tante altre invece versioni, diciamo, che sicuramente sono state anche reazioni di tipo diverso, però questo è vero, lo hanno raccontato anche molto le corrispondenze che la radio ha raccolto durante tutta la giornata di sabato. Parlano abbastanza chiaramente anche le immagini che si trovano moltissimo su internet, ma anche quelle immagini che si vedevano su Rai News, che è stata l'unica televisione che ha mandato in diretta tutto il corteo, quindi per forza di cose si è visto, insomma, un po' come in effetti per esempio a Piazza San Giovanni c'erano effettivamente tantissime migliaia di persone che sono rimaste lì, no? Nonostante quello che stava succedendo. Quindi questa testimonianza ci pare interessante e non è l'unica, insomma, ovviamente. E vabbè, lei appunto racconta proprio della piazza San Giovanni, dice c'erano tre punti della piazza dove diverse migliaia di persone erano concentrate, una all'obelisco, una nella parte centrale davanti a San Francesco e poi negli archi davanti alla Coin. Quanta gente quindi era coinvolta? I soliti 100, diciamo, cattivoni di cui si è tanto parlato, oppure forse 10.000 persone che si trovavano lì e lì hanno tentato di rimanere, insomma, più tempo possibile? E insomma, appunto, questa era un'apertura, insomma, della giornata di Roma. La manifestazione era enorme, appunto 500.000 persone, e noi, vabbè, in questo spazio sì, possiamo fare, diciamo, un commento sul fatto che anche tra di noi e delle testimonianze raccolte, diciamo, lo sgombero di Piazza San Giovanni è stato qualcosa che oltrepassava proprio la situazione, cioè non era giustificato dalle cariche che c'erano state in precedenza, è stato proprio un colpo di mano evidentemente deciso a tavolino, quella piazza non sa da fa, e quindi la polizia ha caricato, ha fatto i caroselli, l'acqua e tutto quello che abbiamo visto o vissuto in prima persona, appunto con la chiara volontà di sgomberare quella piazza, cosa che alla fine è avvenuta, ma insomma non ci si può pensare che questo era effettivamente dovuto a quello che era accaduto poco prima via Labicana. Questo sulla radio, insomma, con le sue tante testimonianze l'ha ricostruito molto bene, e quindi lo ribadiamo, insomma, anche noi. E al di là poi, appunto, di tutte le dinamiche e di tutte le riflessioni che si possono fare sull'opportunità di quanto è successo, che a noi qui interessa veramente relativamente poco in questo momento parlarne, appunto noi volevamo più che altro riflettere su alcuni temi che abbiamo isolato apposta per voi, e farci anche e fare delle domande alle quali, insomma, forse può essere anche interessante trovare insieme, non qui in questa trasmissione, delle risposte. E visto che si è parlato molto di violenza e non violenza, perché non le femministe e le lesbiche che parlano, discutono e analizzano la violenza e la non violenza? Perché appunto siamo sentite in causa a non parlarne anche noi su che cos'è la violenza e su che cos'è la non violenza. E visto che come femministe e lesbiche che lottiamo quotidianamente contro la violenza degli uomini sulle donne, pensiamo che qualcosa di interessante dalle nostre analisi possiamo tirare fuori. Una di queste, appunto, possiamo riuscire a dire qualcosa di diverso da quello che è stato detto, uscendo appunto dalla cornice violenza non violenza, violenti non violenti, che buoni e cattivi. Ragionando poi sul concetto e sulla pratica di violenza, noi più che altro non identifichiamo come violenza la pratica dei manifestanti, ma come autodifesa, e l'autodifesa è qualcosa di diverso dalla violenza. A partire da noi, dalle nostre pratiche, sappiamo che di fronte alla brutalità della violenza patriarcale, le donne possono, devono auto-organizzarsi per difendersi, e per lo possono fare da sole, o meglio ancora collettivamente, per poi sapersi difendere individualmente. L'autodifesa, quindi la risposta a una violenza, non è mai qualcosa di pacifico. L'autodifesa è l'utilizzo di l'uso consapevole della violenza, possiamo chiamarlo forza, però comunque è l'utilizzo di un'altra forza in risposta a un'azione violenta contro di noi per difenderci, e questo l'abbiamo individuato come quello che hanno fatto migliaia di compagni e compagne che erano in piazza San Giovanni. Sì, ricordiamo così, perché questo fa sempre parte appunto delle riflessioni che Daria ci proponeva, che ovviamente ci trovano d'accordo. È chiaro, noi abbiamo sempre detto che la violenza è legata a un sistema, e quindi è da lì che discende, dalle sue istituzioni, la famiglia, lo Stato, i tribunali con tutte le sue leggi, è un sistema che appunto costringe moltissimo le vite delle donne. Per cui certo noi questo identifichiamo come violento. E poi sempre Daria ci segnalava uno scritto che noi andiamo subito, insomma, a leggere, tanto sono poche righe, scritto dalle compagne di scritto che hanno fatto girare le compagne di Barcellona, dal titolo La violenza non è patriarcale, e prendiamo questa. La non violenza è patriarcale. Ah, scusate, è giusto, la non violenza è patriarcale, avete ragione pienamente, è stato un lapsus. Io traduco appunto solo questa frase sperando: con il genere come con la razza, la non violenza è una posizione privilegiata. La non violenza sostiene che invece di difenderci dalla violenza possiamo sopportarla pacificamente fino a quando una parte sufficiente della società si mobiliti per opporsi ad essa pacificamente. Il patriarcato fornisce sia la capacità sia il diritto di esercitare la violenza esclusivamente agli uomini. La non violenza sostiene che per interrompere il ciclo della violenza, sia meglio che una donna si faccia violentare piuttosto che infili una penna nell'occhio del suo datore di lavoro stupratore. Di fatto, effettivamente, quindi non ha in effetti, diciamo, molta logica. Ci piaceva, insomma, citare questo scritto che appunto ci trova d'accordo. Facciamo uno stacchino musicale, va meglio. Da un'altra lettera, da una lettera di Elena, che parla, ci dice questo: nella nostra bella società democratica, chi non è d'accordo lo esprime alzando la mano, come a scuola. E gli uomini che fanno la politica e l'economia, che muovono i capitali da sud a nord, da est a ovest, ti dicono: ma quello che chiedi è irragionevole, e passano oltre. Quindi questa è quella che per il sistema è pratica democratica, e questa è per il sistema la pratica violenta che ci viene riversata adesso addosso tutti i giorni, in tutti i momenti della nostra vita. Quindi parlare di violenza e non violenza nelle pratiche dei manifestanti non ha senso, perché la pratica violenta è sempre quella del sistema, quella dei manifestanti tutt'al più può essere definita autodifesa. E certo, poi c'è appunto tutta una considerazione sul tipo di opportunità, e giustamente qui in studio dicevamo, per esempio, non è che tutte le lotte, diciamo, non violente non prevedano invece l'uso della forza, che appunto è un'altra cosa e si declina con l'autodifesa di cui parlavamo prima. Sì, infatti, proprio perché abbiamo iniziato con un'analisi piuttosto genuina di quella che era il corteo di sabato, è anche buono non mettere subito delle etichette e degli spartiacque tra violenza o non violenza, come forma anche strategica di portare la propria rabbia in piazza. E ovviamente sulla non violenza sappiamo anche guardare al di là magari del Mediterraneo, dove si parla di lotta non violenta, ma si pratica il lancio di pietre contro un esercito occupante, che è la reale violenza e la reale brutalità. Piuttosto, dicevamo prima, microfoni insomma spenti, come la non violenza appunto nel sistema democratico occidentale si possa sostituire invece con buonismo e delega invece della violenza, cose che sono molto molto più semplici e che alleggeriscono anche il peso delle azioni, perché delegare, perché purtroppo, e questo sarà forse il passo successivo della nostra analisi, i non violenti delegano al braccio violento dello Stato, ovvero alle forze di polizia, carabinieri e quant'altro, la loro risposta di dissenso, appunto è il braccio violento di uno Stato che è violento sulle nostre vite, ci violenta a tutti e tutte tutti i giorni, e quindi cosa è successo? Vabbè, al di là degli applausi alle forze dell'ordine attraverso la delazione, che mi sembra ancora peggio, quindi vengono invitati e invitate le persone a pubblicare foto e filmati, vengono invitate le persone a mandare mail e immagini a giornali, insomma, lavoro gratis a favore della questura. O addirittura a denunciare i propri figli perché intravisti tra le immagini. Come è successo in Inghilterra. Segnaletiche, sì, come è successo anche questa mattina a Roma, dove appunto alcuni giornali annunciano il fatto che siano gli stessi genitori del ragazzo arrestato ad aver dato un contributo alle forze dell'ordine. Vero o non vero che sia, l'importante è proprio abituare le persone a la complicità nella delazione e nell'infamia, proprio. Sì, sì, questo è impressionante. Poi c'è anche tecnicamente da dire che non è vero che servono quelle foto, perché noi ci pigliamo in giro, cioè la questura e tutto ambaradam, sanno benissimo come riconoscere, se vogliono, persone avranno foto di tutte e tutti quelli che erano a fare il corteo in qualsiasi sua parte, e diciamo sotto i vari profili, per cui effettivamente riteniamo anche poco credibile questa chiamata alla collaborazione appunto con le questure eccetera, se non che creano, diciamo, dei questurini mancati in molte persone che erano al corteo. Diciamo che su questo argomento della delazione bisognerebbe aprire una bella parentesi, perché può essere, cioè, così di primo acchito potrebbe essere addebitata a una deriva reazionaria, a una situazione contingente, invece fa parte proprio del nuovo armamentario ideologico del neoliberismo, cioè è uno dei connotati della trasformazione delle coscienze che sta operando il neoliberismo, e che è incominciato nel mondo del lavoro, in effetti, no? Cioè la meritocrazia, la gerarchia, la concorrenzialità sfrenata fra lavoratori e lavoratrici che vengono messe una contro l'altra, uno contro l'altro, ha portato la delazione all'interno di questo sistema a valore. D'altra parte è uno strumento che è stato usato in passato moltissimo, fa parte proprio dell'armamentario ideologico dell'educazione dei gesuiti, per esempio, che vedono nella delazione uno strumento fortissimo per piegare le coscienze all'autorità e la incentivano, fa parte proprio del loro programma educativo. Perfetto. La incentivano e la usano fin dai primi anni nelle scuole con i ragazzi, perché questa porta al riferimento dell'autorità come predominante, all'individualismo sfrenato, e questa società ha fatto proprio della delazione un valore. Tant'è vero che poi, oltretutto, se ci ricordiamo, è una cosa cominciata da lontano. Io mi ricordo che anni fa, quando c'era Veltroni sindaco di Roma, a un certo punto aveva fatto una campagna contro i writers, le bombolette, chi comprava le bombolette nei negozi doveva essere schedato, e sono usciti in tutta Roma dei manifesti con un numero di telefono del comune che invitava alla delazione della popolazione nei confronti di, non so, tutti quelli che loro pensavano potessero essere imbrattatori urbani, diciamo, chiamiamoli così. Si tratta poi di strumenti che anche possiamo riscontrare, ecco, non solo in questi episodi sporadici che vengono trattati come unici e emergenziali, ma anche nel quotidiano dei nostri quartieri, dei nostri territori, dove addirittura chi pretende di governare i quartieri istituisce numeri verdi per denunciare chi occupa le case sfitte. Quindi questi sono strumenti di, certo, cui sembra che funzionino molto bene. Diciamo che nel campo, appunto, della repressione di piazza è uno strumento che possiamo riconoscere che anche a Londra, come l'identikit, sai dare un nome a questa faccia, se sai darlo sei un bravo cittadino, altrimenti sei la persona da colpire, isolare e anche da ridurre ancora di più ai margini. E ricordiamoci sempre che è un valore anche della società nazista, che aveva istituito il controllore di caseggiato, quindi tutto un programma. E a proposito, appunto, di quanto state dicendo, è stato scritto un interessante post sul blog Femminismo a Sud, vi leggo l'incipit che un po' racchiude tutto quanto ci siamo dette. Ma con chi siete scesi in piazza? Che gente era? Ma tutti i figli del Grande Fratello? Ma non eravamo partiti dal fatto che all'epoca di Indy Media si andava in piazza per fotografare e filmare le violenze della polizia? Gli abusi, le prevaricazioni, tutto quello che normalmente viene censurato? E ora siamo diventati tutti di telefonino dotati per schedare donne e uomini che usano pratiche politiche che non condividiamo? A questo ci serve la tecnologia? A lavorare gratis per la questura? Eh sì, perché poi sono in crisi anche loro, quindi hanno bisogno, in effetti questa potrebbe essere un'altra ragione per cui ci invitano a fare, no, appunto, d'accordissimo, impressionante in effetti è come negli ultimi tempi abbiano avuto anche diffusione anche all'interno, appunto, parte dalla sinistra, ma ormai comunque inutile qualsiasi distinzione, giornali come Il Fatto Quotidiano, ricordiamoci che in piazza Il Popolo Viola c'era, oggi chiede la legge reale, insomma, il suo più alto rappresentante. Quindi comunque abbiamo un problema di questo tipo, e forse chi ha un patrimonio un po' diverso da spendere su queste questioni è il momento che lo faccia. Appunto, ripetiamo, non è una questione di entrare nel merito dell'opportunità o meno di quanto è successo, è valutare quello che sta succedendo oggi, che effettivamente è molto molto molto grave, con l'aggiunta che poi, appunto, questo, chiamiamolo così, popolo della rete è ben diverso dall'essere un mezzo di comunicazione. Qui ci viene incontro anche un'altra riflessione che fa Daria e dice: c'è forse uno strano fraintendimento tra il concetto di essere i media, come dice per esempio Onda Rossa, non credere nei media essilo, e l'essere protagonista invece sul web della propria piccolezza. Insomma, si fa confusione tra una cosa e l'altra, quindi anche questo, insomma, andrebbe riflettuto. A proposito di questo, mi fai pensare, infatti, che la rete può essere un momento per praticare liberazione, cioè diventi tu il media, oppure invece può essere lo specchio di quello che sei, cioè pratichi assoggettamento facendo dilazione. Eh sì, anche perché per essere tu il media, mi dispiace, ma hai bisogno di un collettivo, di un ragionamento collettivo, di un patrimonio, appunto, ripeto, a cui attingere, non è che una, insomma, poi... Infatti, proprio in questo caso, dato che abbiamo intrapreso il discorso dei media, in piazza era presente anche un vademecum che spiegava brevemente perché avevi una telecamera fra le mani e soprattutto che forma anche di tutela dovevi utilizzare nell'usare quel mezzo, che poteva essere utile ma poteva essere anche un'arma potente utilizzata proprio contro chi manifestava la propria rabbia, e diciamo che questo vademecum oggi invece si ritrova totalmente ribaltato nella lettura di un altro vademecum che invece spiega come tutelarsi dal dopo piazza, dal dopo gli scontri, come tutelarsi dalla repressione, e ci stanno quindi i quotidiani che si sono impegnati nel dire appunto che era lo stesso, cioè seguiva lo stesso filo logico di chi dice usa la telecamera come si deve e poi ti dice butta i vestiti, non parlare con nessuno, nasconditi dietro un dito, tutte cose che lette in maniera chiara come strumenti di cui ci dobbiamo appropriare e che anzi dobbiamo diffondere il più possibile, sono ultravalidi, se messi nelle forche che i media preparano vengono totalmente decostruiti e ribaltati. Come direi, quasi ogni cosa hanno in mano. Sì, no, infatti è verissimo. Su questo forse si può fare una piccolissima parentesi, invece dicevamo come buone pratiche, buon esempio. Ricordiamo che appunto nel caso dei numerosi feriti che ci sono stati negli ospedali, la questura, e questa non è una novità, entrava e voleva identificare i compagni e le compagne manifestanti e le manifestanti feriti, e gli infermieri e i medici si sono rifiutati. Ecco, questa secondo noi è una buona pratica di autodifesa, ottima, e in effetti spetterebbe a tutti avere lo stesso atteggiamento, anche perché così, insomma, ovviamente così bisognerebbe fare. Io, proprio perché abbiamo preso un pochino questa deriva dei media e dei media del regime, penso che a questo punto sia anche utile individuare come i media hanno parlato delle donne, delle compagne nelle strade e nelle piazze. Eh sì, esattamente, il punto dopo. Facciamo per questo uno stacco musicale. Sì, ok, dimmi. Niente, chiudiamo questa parentesi con un augurio, una speranza, una frase che stava sull'Odeon occupato a Parigi nel maggio del 68 e che dice: su strade che nessuno ha mai percorso rischia i tuoi passi, in pensieri che nessuno ha mai pensato rischia la tua testa. Ciao. Ci sono scuote la routine, le manque de vie qui se tasse, sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse, et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermez la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait. Pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer au pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. À de la lune. La chance dans les mains libres, enfants de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides. Fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer au port. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme nous, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élise sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fous depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne, la vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, entre le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile. Prima che chiudesse Elisabetta abbiamo anticipato l'argomento che volevamo trattare dopo lo stacco musicale, che era quello appunto dello stereotipo, della stigmatizzazione doppia della violenza delle donne, come se le donne fossero assenti in queste lotte, come se ci si stupisse che nel momento in cui sono presenti perché non sono al posto loro. E poi appunto la doppia repressione che le donne subiscono proprio perché in quanto donne. Io volevo leggere un'ANSA e poi far partire la riflessione, questo perché l'ANSA del 16 ottobre mi sembra molto esemplificativa del discorso che stiamo per intraprendere. Spranghe, maschere antigas e armi per la guerriglia urbana tra le mani di giovani sotto i 30 anni o addirittura liceali. A scatenare l'apocalisse ieri nella capitale durante il corteo degli indignati sono stati soprattutto donne e minorenni. I 12 arrestati sono tutti sotto i 30 anni, tra gli 8 denunciati i minorenni sono 6, tra loro, udite udite, anche 4 donne. E questa era un'ANSA, a parte l'udite udite. Infatti penso che sia proprio questo parallelismo tra minorenni e donne non è la prima, la novità. Il primo stigma che ritroviamo, ovvero sì. Si parla appunto di donne, mamme spaventate che scappano dagli scontri, o di vecchie impaurite, o di donne accarezzate da cellerini, o di donne che l'unico corteo che volevano era il bacio d'amore col proprio compagno, o di donne che mettono i fiori sui blindati o che hanno il fiore in bocca e ballano il tango. Insomma, questa è la figura della donna rappresentabile come manifestante degna, esatto, compatibile con l'immaginario, quindi sì, una vittima quando non ha la testa fracassata e il fiore in bocca, appunto, succedono, diciamo, altre cose. Appunto, abbiamo visto che cosa succede quando sono le donne a prendere, diciamo, parte attiva nei conflitti o quando li mettono in atto loro stesse. Non so se vogliamo leggere. Ecco. Sì, un'altra cosa orribile trovata sul Corriere.it, ci sta un blog che si chiama La 27esima ora e parla delle black bloc a Roma. Chi sono le ragazze violente? Mi scuso un po' per questo linguaggio black bloc, così, però noi stiamo semplicemente leggendo quanto di più disgustoso ci sia nella rete, però perché vogliamo poi scardinarne gli stereotipi. Comincia così: diciamo la verità. Non ce l'aspettavamo, peccato. Non tanto la violenza che era annunciata e forse nemmeno la gravità degli scontri di Roma, durante i quali l'abbiamo visto tutti, ci sarebbe potuto davvero scappare il morto. No, Quello che non ci aspettavamo è che tra quei blocchi di felpe nere che avanzavano a falange sotto quei cappucci che coprivano i volti, sotto i caschi integrali, spuntassero code di cavallo, mani affusolate, scusatemi da ridere, corpi inequivocabilmente giovani e femminili. Ma mi è venuto da ridere perché mi è sembrato la maestra che ti guarda quando sei piccola e ti dice... ti sgrida, non me l'aspettavo proprio da te, no, che delusione. Le ragazze cattive in corteo, tante pronte a menare le mani, ad organizzare la guerriglia, a scagliare le pietre, tante pronte a finire in galera. Giovanissime, tra gli arrestati c'è una minorenne, o più mature, alle prime armi o esperte di lotta, sedicenti, anarco-insurrezionaliste o combattenti per il comunismo. Vabbè, io non ce la faccio più a leggere questa cosa perché è veramente è un articolo che poi si conclude con una domanda che io a prima così vista ho subito riferito ad un pubblico ascoltatrice di donne, con una domanda che dice: ma di fronte alla violenza di altre donne non possiamo chiudere gli occhi, dobbiamo domandarci cosa significa, da dove viene e cos'è. Voi avete una risposta? E questo, sinceramente, scritto da una giornalista, mi sembra estremamente rivolto al pubblico femminile, il quale, cioè, non so che tipo di risposta sia. Beh, con gli elementi che ha dato lei, insomma. Io volevo fare una nota rispetto a questo articolo, perché c'è una foto che poi è una foto molto che ha girato tantissimo, perché è una foto di Occupy Wall Street, le manifestazioni che ci sono state negli Stati Uniti. Si vede una ragazza bianca con un fiore in bocca, bianco anche quello, che viene trascinata via da un poliziotto di colore. Allora, questa foto apre scenari inenarrabili su cui uno potrebbe stare a parlare tutta la sera e tutta la notte, sugli intrecci delle oppressioni di genere, di razza, di classe. È incredibile, è un'immagine che proprio è emblematica, dovrebbe essere appesa a tutte le parti per far vedere come gli oppressi opprimono gli oppressi, come gli oppressi si fanno strumentalizzare dal sistema, come sono più realisti del re. Basta, altrimenti arrivo domani. Sembra quasi che facciamo sempre gli stessi discorsi. Infatti, comunque questo è niente, perché poi questa immagine sta lì non a caso, nel senso che è l'immagine che, secondo la giornalista in questione, è quella che noi dovremmo vedere sempre. Quindi la donna caricata, cioè portata via, arrestata col fiore in bocca, è ovvio a quel punto che fai, metti in fiore in bocca quando ti portano via, è chiaro. E questa è appunto entra nell'immagine rassicurante, contrapposta appunto a quelle che saltano le barricate, che sono in grado comunque appunto di svolgere delle azioni. No, infatti la cosa inquietante è che la giornalista, se così si può chiamare, dice proprio esplicitamente: questa è l'immagine che vorrei conservare di queste proteste, di queste manifestazioni, contrapponendola a tutte le altre che lei invece vorrebbe gettare via, dimenticare. E infatti, secondo me, una delle cose che, insomma, è molto chiara di questo articolo proprio dall'inizio è lo stupore, la meraviglia che suscita l'idea di associare appunto l'immagine delle donne al concetto di violenza, che per un certo modo di pensare, per quella costruzione della femminilità che poi caratterizza, insomma, una società patriarcale, è quanto di più lontano possibile un ossimoro, perché le donne automaticamente non possono essere associate con la violenza, ma appunto la femminilità storicamente rimanda a tutta una serie di immagini che sono appunto molto più docili, addomesticate. La donna è legata al lavoro di cura, alla sensibilità, alla tenerezza, mentre la brutalità, la forza sono caratteristiche intrinsecamente maschili. E questo stupore, quindi, rispetto al fatto di associare la violenza alla femminilità, in realtà non è soltanto qualcosa che ci viene imposto dai modelli di riferimento, i ruoli a cui dobbiamo uniformarci e che ci vengono impartiti, ma in realtà qualcosa che noi donne stesse abbiamo introiettato, per cui la stessa giornalista, che appunto, come tu facevi notare prima, si rivolge ad un pubblico femminile, cioè delle potenziali lettrici di un ipotetico giornale rivolto proprio alle donne, pone un interrogativo a cui in realtà ha già dato una risposta, cioè questa immagine mi stupisce perché non corrisponde all'immagine che ho di me, e quindi il punto di partenza del ragionamento è semplicemente la violenza, le donne violente sono un tabù, un qualcosa di cui non si può parlare, qualcosa che per noi non esiste. Credo che questo sia il punto di partenza di una riflessione che poi in realtà non appartiene soltanto appunto cioè ai media mainstream e a una certa immagine della femminilità che ci hanno imposto, ma in realtà è un tabù che poi permea tutta la nostra società, che molte di noi, insomma, cioè che abbiamo comunque tutte introiettato, e poi ovviamente ognuna di noi fa collettivamente uno sforzo anche nei suoi percorsi politici collettivi per liberarsi da questa immagine, no? E penso che tra l'altro sia qualcosa che in realtà permea anche dentro i contesti di lotta, dentro anche quella che è la cosiddetta solidarietà nei confronti poi delle donne colpite dalla repressione, e di quanto poi anche all'interno dei nostri spazi di discussione esca fuori l'immagine protettiva del movimento nei confronti della povera compagna che finisce poi quasi per essere lì per caso, o semplicemente la donna che scappava o si proteggeva è stata presa, rastrellata a caso. E penso che sia anche una riflessione da rimandare appunto all'interno poi di come si prenda anche parola al posto della lotta degna delle donne e delle compagne. D'altra parte è una cosa che viene da lontano, nel senso che ce la trasciniamo ormai da tantissimo, perché per esempio vi leggo una dichiarazione che fa Rosa Luxemburg al processo che è stato intentato per attività antimilitariste, siamo nel 1914. Dice: nella sua esposizione il signor procuratore ha dedicato molta attenzione specialmente alla mia piccola persona, mi ha descritto come un grande pericolo per la sicurezza dell'ordine statale, non ha nemmeno disdegnato di scendere a un livello volgare e mi ha chiamata Rosa Rossa, ha anche osato insinuare sospetti nei riguardi del mio onore personale. Dopodiché mi vengono in mente tutte le cose che sono state dette, per esempio, negli anni 70 sulle donne che hanno partecipato alla lotta armata, no? Cioè sono state descritte dalla stampa borghese sempre come donne totalmente incapaci di scelte personali, che queste scelte erano dettate da una presa di coscienza politica perché stavano con un compagno, erano le compagne di qualcuno. E infatti è una, diciamo, un tipo di considerazione che già i compagni di quella volta hanno rigettato, perché mi ricordo che in occasione della morte di Margherita Cagol lo Stato e i giornali di regime hanno proprio detto delle cose simili, e i compagni hanno risposto che nel conto che dovranno pagare i padroni e i loro servi aggiungiamo anche questo modo di trattare la donna. Lo nominiamo, insomma, diciamo anche questo tipo di costruzione nella fase repressiva, perché lo ricordiamo, ci sono attualmente delle compagne e dei compagni che si trovano in carcere, altri e altre che sono sotto inchiesta, chi ha subito perquisizioni, andate ovviamente in modo negativo perché è stata un'operazione mediatica anche quella, arresti grossolani, chiunque ha praticato un corteo almeno una volta si è reso conto che i primi che pigliano di solito appunto in realtà vabbè, lasciamo perdere. Quindi insomma ci troviamo di fronte a questa situazione, quindi sì, ricordiamo che poi anche in tutta la fase legata alla repressione, l'abbiamo visto negli anni anche ai noi ultimamente, c'è questo tipo di meccanismo che stritola veramente qualsiasi tipo di rappresentazione. Infatti penso che in questo caso sia anche utile fare riferimento a un altro articolo che è stato pubblicato nella giornata di oggi, dove appunto invece si ribalta la questione, ovvero si parla di donne che sono a capo dei comando di alcuni nuclei organizzati per le violenze, donne quasi incapaci di esprimere la loro rabbia, ma che in quanto astute, intelligenti e malefiche, maledette, sono capaci di segnalare e organizzare una piazza in rivolta. Premesso che nel senso la tensione di una piazza del genere e soprattutto la rabbia che insomma in qualche modo ognuno di noi avrà potuto vedere è tutt'altro che organizzata, e molto spesso comunque nelle congetture dei tribunali si prova anche a fare dei reati associativi, metterci anche a capo qualcuno. In questo caso la strategia di mettere a capo addirittura compagne non presenti nella piazza o comunque più tardi intercettate come colpevoli e responsabili è una cosa che possiamo riconoscere anche nell'ultimo anno nel caso della repressione che è stata destinata al collettivo del fuoriluogo, dove le due compagne, e una in particolare perché più adulta di altri, perché molto intelligente, veniva raffigurata come a capo di questa organizzazione, la regista di addirittura non solo quello che accade, le lotte nelle strade, ma addirittura delle rivolte dentro i CIE, quindi in questo caso proprio anche l'autodeterminazione dei migranti e la rabbia di chi è chiuso dentro le gabbie veniva totalmente strappata per costruire questa immagine della terrorista lucida, fredda e perfetta. Tra l'altro congetture che sono cadute nel vuoto, ma che in ogni caso sono degne di un'analisi chiara anche da parte nostra. Sì, sicuramente. E infatti siamo in chiusura, diciamo, quest'ultima parte poi interroga anche, diciamo, indirettamente, la poniamo così, le femministe, le lesbiche, le donne, diciamo, auto-organizzate su come collocarsi in una situazione del genere, e purtroppo facendosi largo tra tutta questa sfilza di stereotipi, appunto, è estremamente difficile, però ci interroga anche su questo. Sicuramente noi non ci collochiamo tra coloro che appunto stanno a pubblicare foto in questi giorni o a prendere appunto posizioni così di distanza. Riteniamo e la buttiamo là, ma insomma che il silenzio che sta seguendo, diciamo, in questi giorni il comitato promotore di questa giornata, il fatto che non sia stato indetto nessuna assemblea per pubblica, diciamo, o comunque che non si stia lavorando indefessamente per la solidarietà e la difesa attiva dei compagni e le compagne che si trovano sotto inchiesta e addirittura in carcere in queste ore, la dice insomma lunga su tutta un'altra serie di cose che noi ovviamente qui non commentiamo se non ecco in questo modo. Lo ricordiamo comunque che invece domani ci saranno delle decisioni che il giudice prenderà in merito alla conferma convalida o meno degli arresti. Noi ovviamente speriamo che i compagni e le compagne escano dal carcere. Se ciò non dovesse avvenire, lo lanciamo già subito adesso dai microfoni, giovedì è stato organizzato un presidio, se mi aiutate alle 17. Sì, alle 17 dal Gianicolo, proprio perché è il punto dove si riesce a comunicare nel migliore dei modi dentro le gabbie di Regina Coeli. Ovviamente invece per quanto riguarda il femminile di Re Bibbia è uno spazio che viene praticato molto spesso e che quindi in realtà vede anche più libere le iniziative di piccoli gruppi che potrebbero provvedere a fare saluti anche ogni giorno, ogni ora, ogni momento. Sì, infatti. E poi ricordiamo anche che giovedì la radio ovviamente seguirà, pensiamo insomma, anche questo presidio, se ci fosse, noi speriamo di no, perché chiaramente il presidio ci sarà se gli arresti vengono confermati. Comunque alle 18 poi ci sarà anche una trasmissione che nella fattispecie affronta proprio questa tematica che noi abbiamo un po' trattato oggi sui media, la rete, l'uso delle immagini anche con scopi, ahi noi, di repressione e forse la necessità di recuperare un po' di buone pratiche o di conoscenza e consapevolezza sull'uso di questi mezzi. La radio comunque l'ha ritenuto necessario, quindi giovedì pomeriggio da questi microfoni ci sarà una trasmissione che riflette pure su questo. Che dire, possiamo concludere con il solito saluto a tutte coloro e tutti coloro che sono, in qualsiasi modo questo avvenga, e ce ne sono ai noi purtroppo veramente tanti, privati della loro libertà personale. Ci sembra importante in questo momento mantenere attiva la solidarietà, lasciar perdere appunto velleità strane, tanta questura non ha certo bisogno della nostra collaborazione, e che dire. A presto, continuiamo con le trasmissioni. Ciao. Ciao. Ciao.